ricordandoci della nostra fragilità. Corriamo ai ripari, stiamo attenti, non ci mettiamo nelle occasioni di peccare, non ci pavoneggiamo quando riusciamo a far del bene, stiamo bassi, bassi, umili, umili. Allora il peccato ci diventa impossibile per nostra fortuna. Ecco, quando noi incominciamo a peccare è quando ci mettiamo la cresta, quando guardiamo gli altri dall'alto in basso con disprezzo, quando mormoriamo degli altri, critichiamo, pronunciamo giudizi scriteriati contro gli altri, allora siamo tutti in procinto di cadere. Ma quando io ho coscienza della mia fragilità, non posso dir male di nessuno, perché non trovo nessuno peggiore di me, nessuno più fragile di me. E allora mi riguardo bene dal dir male degli altri, mi guardo bene dal conservare rancore verso chi che sia, mi guardo bene da nutrire antipatie per qualcuno, mi guardo bene dal curiosare riviste o spettacoli che turbano la coscienza, siccome temo di me o viva la coscienza della mia fragilità, non mi metto in pericolo, non scherzo con il fuoco, non scherzo con Satana, non scherzo con le passioni che covano nel fondo dell'anima di ogni uomo. Ecco, ricominciamo da capo. Ve lo dice chi ricomincia da capo ormai, sì, altro che la millesima volta. Sì, quante volte io ricomincio da capo, senza brontolare né contro il cielo né contro la terra. Solo dico: Signore, grazie, che testa dura che sono, non ho ancora capito che Tu sei la mia roccia, Tu sei la mia difesa, Tu sei il mio tutto e di Te solo devo fidarmi, non di me. Ricominciamo da capo. San Pietro Apostolo, quando tanto santo ancora non era, chiese un giorno a Gesù Cristo: Maestro, Tu ci mandi nel mondo ad assolvere dai peccati, a perdonare i peccati. Dici, Maestro, quante volte io dovrò perdonare a chi pecca? Cosa dici? Una volta, due volte, tre volte? Sette volte? E Gesù disse: 70 volte 7. Sempre, sempre, sempre dolcissimo, sempre da capo noi, confidando in quel sempre. 70 volte 7 vuol dire sempre, perché noi siamo da capo purtroppo. Quante volte? Non 7 volte, 70 volte 7. Tanto è cocciuta la nostra tendenza al peccato, tanto cocciuta la nostra superbia, tanto cocciuti i nostri difetti e tanto fragile la nostra volontà. Ebbene, ricominciamo 70 volte 7. Ricominciamo la millesima volta. Ricominciamo da capo. Arriveremo alle vette arrancando. D'altronde gli scalatori non arrivano a fronte alta, pettoruti, tronfi, paghi, superbi. No, sulle vette si arriva con le ginocchia. Io porto i segni sul ginocchio sinistro dell'ultima salita sul Gran Sasso. Sono arrivato anch'io a Carponi, simbolo della mia vita spirituale. Si arriverà così, arrancando, purché arriviamo, e si arriva ricominciando da capo, come state facendo voi. Congratulazioni, ricominciamo da capo. Chi la dura la vince, hanno insegnato anche questo i nostri alpini. Chi la dura la vince. Più salgo, più valgo, ma per salire bisogna pagare di persona. ricominciando il sentiero l'ennesima volta. Dio si congratula con noi quando ricominciamo di nuovo, approfittando del suo perdono. Quando vi dicevo ogni sera non saltatene via una, ogni sera domandatevi: oggi ho pernotato il mio posto nel paradiso? Oggi bilancio della giornata. Che cosa ho nella mia coscienza? Cianfrusaglie, rifiuti, stracci, miserie, peccati. Allora cerca quel crocifisso, stringilo fra le mani, stampaci sopra un bacio, e quel bacio purificherà la tua anima e Cristo troverà spazio per baciarti in fronte. Ma perché tutte le sere? Tutte le sere noi constateremo la fragilità dei nostri piedi, la fragilità dei nostri propositi, e non ci stupiremo, non ci scoraggeremo per niente, non ci avviliremo, riprenderemo da capo, guardando a Lui che ha detto di perdonare non 7 volte, 70 volte 7, sempre.